pampa profumata, va il suon d'una dolce serenata, tra i fior canta il gitano alla sua amata, la bella canzone con immensa passione. Amapola, dolcissima amapola, la sfinge del mio cuore sei tu sola. Io ti bramo, ti invoco follemente per dirti t'amo appassionatamente. Amapola, vaghissima amapola, la luce dei miei sogni sei per lontano, e ancor canta il misero gitano lassù, dalla sua amata attende invano un bacio ed un fior, un sospiro d'amore. Amapola, la luce dei miei sogni sei per me.